29. Minestra di bomboline di patate. Patate grammi 500, burro grammi 40, parmigiano grattato grammi 40, rosso d'uovo numero 3, odore di noce moscata. Cuocete le patate nell'acqua, o meglio a vapore, sbucciatele, passatele calde dallo staccio e salatele. Aggiungete gli ingredienti suddetti e lavoratele alquanto. Distendete un velo di farina sulla spianatoia e sopra la medesima versate il composto per poterlo tirare a bastoncini senza che la farina penetri nell'interno. E con questi formate delle palline grosse come le nocciole. Friggetele nell'olio o nel lardo ove sguazzino e mettetele nella zuppiera versandovi il brodo bollente. Questa dose potrà bastare per 8 o 10 persone.